In auto lei mi ha assicurato che la cena era una cosa informale, che i suoi sapevano già da tempo che le cose tra lei e Italo non andavano tanto bene. Anzi, a dire la verità, a loro Italo non piaceva proprio. Mentre mi diceva tutte queste cose, io cercavo di decifrare se si trattava di una forma di incoraggiamento oppure no. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Un bel po' di tempo fa ho avuto una storia con una ragazza che viveva negli Stati Uniti. Non ho mai conosciuto i suoi genitori, però una volta incontrai suo fratello. Era un tipo simpatico. Parlava un inglese molto americano. Io sinceramente capivo poco di quello che lui diceva, però il pranzo fu piacevole. Lei aveva circa 8 anni più di me e lui ne aveva 15 più di lei, quindi da lontano poteva sembrare anche un padre. Io raccontai le solite cose che si raccontano dell'Italia quando qualcuno che non la conosce ti chiede dell'Italia. E poi alla fine della cena lui guardò prima me, poi lei e disse: «Ok ragazzi, vi do 3 buoni motivi per cui la vostra storia non può funzionare. Primo l'età, secondo la distanza, terzo la lingua». Lei lo mandò a quel paese, io sorrisi e non dissi nulla. Era un giorno di aprile del 2005, mangiamo un'insalata di patate e un pollo arrosto e anni dopo realizzai che lui aveva ragione. È che il giorno in cui incontri i genitori o i parenti della persona che ami, in qualche modo quel giorno ti rimane impresso nella mente. Magari non tutto, però chissà perché qualche dettaglio apparentemente inutile si incide dentro la tua testa. Qualcosa che accade durante la cena o prima, una frase che la madre dice a mezza bocca, un'occhiata del padre, il modo in cui la sorella la guarda o la tovaglia che è stata scelta per l'occasione. E magari durante la cena non te ne rendi conto, ma poi, con gli anni, con il tempo, ti accorgi che in quella riunione attorno ad un tavolo c'era già stato qualcosa di rivelatorio. C'era stato un dettaglio, magari nell'espressione dei genitori, nella somiglianza di lei con la madre, nell'inflessione della voce, roba che ad un osservatore attento non sarebbe passato inosservato. In quell'incontro con i suoi genitori c'era già tutto. Un po' come in quei disegni che stimolano la percezione visiva, no? Quelli che sono fatti solo di puntini, che sono solo all'apparenza caotici. Però se ti metti lì e li fissi attentamente in un punto preciso, dopo un po' rivelano dei disegni nascosti che prima erano invisibili. Ecco, ripensando a quel giorno lì, ti rendi conto che lei è quello che balza all'occhio se fissi la sua famiglia con attenzione. E quei dettagli che ti sono rimasti impressi lo raccontavano già molto bene. Per me ieri sera è stato così. E per voi, invece, com'è stato? Non lo so come sia stato, so però che il numero è sempre quello ed è 800240024, oppure per gli sms è 349-238-6666. Magari vi è successo recentemente, magari di recente avete fatto una cena o un pranzo con i genitori del vostro fidanzato, della vostra fidanzata, o magari del vostro marito, perché ci sta che magari qualcuno li abbia conosciuti dopo il matrimonio, anche se non voglio sapere il perché. Però di quella cena vi è rimasto impresso, di quel pranzo vi è rimasto impresso un dettaglio, qualcosa che evidentemente rivela, è rivelatorio, no? Se l'avete fatto di recente potete solo raccontarmi che cosa è accaduto, se è successo qualcosa di particolare. Se invece questa cena l'avete fatta 20 anni fa, 30 anni fa, 40, beh allora riguardando tutti questi anni messi insieme, probabilmente tornando a quella sera che sicuramente vi ricordate, c'è qualcosa che aveva già raccontato, non dico tutto, ma buona parte della persona con cui state. 800240024 349-238-6666. Ci ho pensato un po' in questi giorni, ma non mi è venuto in mente. Ne avevo parlato con Tiziano Bonini e con Vittoria Mussini, che tra l'altro oggi è con uno splendido maglioncino verde, e non mi è ancora venuto in mente com'è quel detto lì. Quello che è chi di verde si veste, di sua beltà qualcosa, si bea tipo. Che comunque vuol dire che siccome il verde evidentemente non dona moltissimo all'aspetto, uno che si veste di verde perché sa di stare bene comunque. Vabbè, so che adesso arriveranno i messaggi per spiegarmelo. 349-238-6666. Comunque, ne parlavo con Vittoria e con Tiziano. C'è un racconto di Nicolò Ammaniti che sono quasi convinto sia un racconto breve, che non sia all'interno di qualche altro suo libro, e in cui lui, cioè il protagonista di questa storia, va a pranzo a casa dei genitori di lei. Non è un primo pranzo quello, mi pare che non sia un primo pranzo. Comunque, durante questo pranzo, dove va tutto più o meno bene, chiacchiera con loro, chiacchiera con lei, a un certo punto, mentre stanno mangiando, lui ha come la sensazione di vedere fisicamente che il volto della sua fidanzata è fatto dei pezzi dei volti dei suoi genitori. Che detta così è detta male, è semplicemente un modo brutto per dire che i figli assomigliano ai genitori. Però in quel racconto lui descrive quasi con orrore come realizzi, proprio mentre stanno mangiando, mentre mettono in bocca il cibo, che il naso è un pezzo del padre, la bocca è un pezzo della madre, la fronte sembra quella di tutti e due, e alla fine la figura della fidanzata che ne esce è quella di una sorta di mostro di due teste con pezzi di tutte e due, padre e madre, e non rimane un buon ricordo di quel pranzo. Non mi ricordo che racconto, se qualcuno ce l'ha in mente e me lo ricorda, il numero è sempre quello: 349-238-6666. Insomma, la prima cena con i genitori della vostra fidanzata o del vostro fidanzato vi ha fatto capire qualcosa? È successo qualcosa? Non è che deve essere per forza accaduto come in Ti presento i miei, in cui gliene succedono di tutti i colori, però quella cena lì è una cena che in un modo o nell'altro non è una cena normale. Ecco perché, se avete voglia di raccontarmela, il numero è quello: 800240024, oppure 349-238-6666. La mia cena è stata ieri ed è andata così. Insomma, ieri pomeriggio, come mi capita certe volte, ho fatto il punto su chi sono e come sono arrivato fino a qui. E queste cose le faccio quando ci sono momenti importanti da affrontare. Momenti come quello di ieri sera, in cui sono andato a cena a casa di Natalie. Effettivamente io avevo un piccolo vantaggio rispetto a chi affronta una prima cena al buio. Il vantaggio era che io di fatto loro li avevo già incontrati, a Procida. La cosa però che poteva suonare strana comunque era che io ritornassi a cena come il nuovo fidanzato della figlia. È stata una giornata un po' travagliata quella di ieri, perché non ho fatto altro che ragionare su questa questione. Che faccia faranno quando mi vedranno entrare in casa loro con un ruolo diverso dal turista che vuole visitare Procida? Ecco, fortunatamente ogni tanto qualche intuizione ce l'ho ancora. E mi sono ricordato che io avevo una carta da giocare. Una carta che non avevo giocato la prima volta che li avevo incontrati. Una carta di quelle che sparigliano il mazzo. Una specie di asso d'oro che ti giochi quando vuoi far cambiare inerzia alla mano. Oppure quando sul tavolo ci sono talmente tanti carichi che non puoi fare altro che raccogliere tutto. E il mio asso era la scatola di Agata. Dunque, è lunedì 8 novembre del 2010. Ho in mano la scatola che ho trovato nelle piastrelle del mio bagno. Credo sia una scatola di biscotti, di quelle in latta che non fanno più. L'apro. Allora. Carta per lo più. Lettere. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lettere, tutte intestate alla stessa persona, che è una donna e che si chiama Agata. Perché alla fine io la lettera, quella che Agata non aveva mai spedito a Vincenzo, non so nemmeno il perché, ma non gliel'avevo data. E quindi, giocandomi questa carta, avrei fatto Ori, Primiera, Sette Bello e pure la Napola. Non ho detto niente a Natalie. Dopo la diretta sono tornato a casa, mi sono accorciato un po' la barba, mi sono messo una camicia, ho infilato nella borsa la scatola piena delle loro foto e delle loro lettere e sono andato a prenderla. In auto lei mi ha assicurato che la cena era una cosa informale, che i suoi già sapevano da tempo che le cose tra lei e Italo non andavano bene, anzi a loro Italo in realtà non piaceva proprio. Mentre mi diceva queste cose cercavo di decifrare se si trattasse di una forma di incoraggiamento oppure no. Le ho detto che con i genitori io di solito sono molto bravo, ma non ero per niente convinto. O perlomeno non lo ero più. E poi era dai tempi di Giulia, dalla prima cena dei suoi, che non mi capitava una roba simile. Però ho fatto finta di non pensarci e ho tirato dritto. L'autostrada era stranamente libera, anche se si percepiva che giusto qualche ora prima era stata intasata, come sempre succede la sera, quando la gente scappa da Milano. Sembrava che la strada e gli alberi intorno stessero respirando, dopo aver ospitato migliaia di macchine tutte insieme, tutte in fila. La casa dei genitori di Natalie è in un paesino sul lago di Varese. Quei posti che non sono di passaggio, quindi se non hai un buon motivo per andarci non ci vai. Nella mia testa giravano solo i nomi di alcuni dei paesi lì intorno, quelli che finiscono tutti in ate, tipo Mustonate, Bugugiate, Gagliate, Bernate, Azzate. anche se nel mio stupido senso dell'umorismo preferisco sempre l'uscita dell'autostrada di Gazzada. La prima cosa che si incontra una volta usciti dal casello è una rotonda in cui al centro svettano le statue di 9 personaggi politici, che sono politici locali però ormai chiaramente di rilevanza nazionale. Questi politici, cioè quest'estate, stanno pedalando su delle biciclette. Così mi ricordo giusto le facce di Bossi e quella di Roberto Maroni, le altre invece mi sfuggono. Prima ancora che io potessi dire qualcosa, Natalie mi ha spiegato che erano state create per festeggiare i mondiali di ciclismo, quelli che si erano tenuti a Varese 2 anni prima. Io non sono riuscito a dire niente, ma mi deve essere uscita un'espressione sul viso che indicava un «Ah vabbè, allora, se è così, mi sembra giusto». Siamo rimasti in silenzio per un paio di minuti e dopo 5 rotonde lei ha annunciato la prima a destra e siamo arrivati. Casa è una villa. Un edificio dei primi del secolo, su 3 piani e un giardino di fronte. Non sfarzosa, ma elegante. Nel cortile c'erano parcheggiate 2 macchine e un grande fuoristrada, di quelli inglesi da montagna o da deserto, con 4 ruote enormi e tassellate. Appena scesi, lei ha fatto un fischio in aria e, tempo un secondo, ho sentito il rumore delle zampe che arrivavano al galoppo verso di noi. Quando mi sono girato, lei stava già accarezzando roccia, che dopo essersi preso la sua dose di carezze è venuto da me per annusarmi e capire chi ero. Natalie mi ha detto che mi aveva riconosciuto. Io ho sorriso sia a lui che a lei, anche se non ero proprio così convinto. Poi mi ha preso per una mano e siamo saliti lungo una scala in pietra e siamo entrati in casa. In fondo al corridoio c'era un soggiorno con 2 divani e il camino acceso. Lei mi guidava per le stanze, ma la casa sembrava vuota. Abbiamo preso una porta sulla destra che dava sulla cucina. La prima cosa che ho visto è stata un'affettatrice a volano, rossa, di quelle con la ruota a manovella per farla girare. Sopra l'affettatrice un prosciutto che solo a guardarlo mi ha aumentata la salivazione. In una pentola stava bollendo qualcosa e il forno era acceso. Siamo passati nella sala da pranzo, che era apparecchiata, ma anche lì non c'era anima viva. Natalia allora ha lanciato un urlo e dal soffitto qualcuno ha risposto con «Siamo di sopra!». Abbiamo preso la scala in pietra e siamo saliti ai piani superiori. Abbiamo passato il primo e siamo andati direttamente al secondo, una mansarda completamente buia. A destra c'era uno schermo bianco su cui stavano proiettando un film e davanti tutti quelli che avevo trovato sul terrazzo di Procida che fissavano lo schermo ridendo. Hanno acceso la luce e mi hanno salutato come se il fatto che io arrivassi per mano a loro figlia mentre loro guardavano un film di famiglia in Super 8 di 50 anni prima fosse la cosa più normale del mondo. Hanno baciato Natalie. E poi siamo tornati giù, perché la cena era pronta. Abbiamo mangiato un risotto con le pere e radicchio e un arrosto di tacchino. Per tutta la sera si è mangiato e si è parlato, amabilmente, come se fosse una cena di Natale uscita bene, di quello in cui tutti i parenti hanno davvero voglia di vedersi e si godono la presenza l'uno dell'altro. Io parlavo un po' con Vincenzo di Procida e un po' con Agata di Milano e un po' di tutto con tutti gli altri. Tiziano, il fratello di Natalie, mi parlava del suo fuoristrada, di come gli avesse cambiato le sospensioni facendosi arrivare quello originale dall'Inghilterra. Il tutto mentre sua moglie incinta lo guardava con l'aria che hanno le donne quando sanno che avere un altro bambino non sarà un problema, perché uno ce l'hanno già in casa. Quella che parlava di meno era Carolina, la sorella piccola, che mangiava svogliatamente, ogni tanto si alzava e andava a scrivere qualcosa, credo, sul suo profilo Facebook, di là, in studio, e poi tornava. Quando le ho chiesto che classe facesse, lei mi ha risposto «Terza liceo, ma tanto so che non ti interessa veramente, e in fondo neanche a me». Ho sorriso e ho incrociato lo sguardo di sua mamma, che ha alzato le mani come a dire «Non ti preoccupare, passerà». Poi Carolina, non contenta, si è alzata e prima di andare a scrivere qualcosa su Facebook ancora mi ha detto «Inutile che ti impegni, tanto anche la vostra storia finirà». Insomma, nonostante qualche scossone qua e là, tutto è filato liscio. Finché, arrivati alla torta di Gattullo che avevo portato io da Milano, ho preso la mia borsa, ho tirato fuori la scatola e ho annunciato che avevo una cosa da restituire ai nonni. Si è creato quel silenzio che si crea quando deve succedere qualcosa di importante. Roba che se poi quella cosa lì non è realmente importante rischi di far la figura del cretino. Ho appoggiato la scatola sul tavolo e tutti l'hanno guardata senza capire. Solo Agata ha fatto qualcosa. Nulla di eclatante. Non è saltata sulla sedia, non ha fatto un urlo, no. Con un'eleganza delicatissima ha appoggiato le posate al piatto, ha sollevato una mano, che sembrava di carta velina, l'ha portata sulla fronte, a coprirsi appena gli occhi, e ha iniziato a piangere in silenzio. Adesso cosa penserai di me, Teresa? Non sono mica nato ieri, per te non sono stato il primo, nemmeno l'ultimo, lo sai, lo so, ma Teresa... Ciao Matteo, mi chiamo Luca, sono di Torino e da circa 3 anni vivo in Inghilterra. Non starò a tediarti oltre su informazioni personali, se vorrai potrai conoscermi meglio andando su Facebook. Ho chiesto la tua amicizia e ti sto scrivendo questo messaggio perché da un paio di settimane ascolto la tua trasmissione. A questo proposito devo confessarti 2 cose. La prima è che non l'ascolto mai in diretta, mia moglie scarica il podcast da iTunes. E poi alla sera o nei weekend al calduccio sotto le coperte stiamo ore ad ascoltare le tue storie. La seconda, e per favore non avertela male, è che se non fosse stato appunto per mia moglie, la quale ha iniziato a cercare trasmissioni di radio italiane, io non t'avrei mai conosciuto. La vostra radio non è mai stata tra le mie preferite. Quando lei mi ha detto «Luca, ho scaricato una trasmissione di Radio 24, il conduttore è uno di Novara», io le ho semplicemente risposto «Radio 24? Ma lì parlano solamente». Se devo essere sincero, io l'ho sempre sintonizzato su RDS. Comunque, ora ti conosco e conosco tutte le trasmissioni della vostra emittente e continuerò a seguire l'evoluzione della storia con Nathalie e tutti i programmi di Radio 24. Questa mail che mi è arrivata qualche giorno fa, a nome Luca, che vive in Inghilterra, l'ho letta per un semplice motivo, perché la notizia è di pochissimi minuti fa ed è che sono arrivati tutti i podcast che mancavano. Per tutte le persone che sono solite ascoltarli in podcast, che in teoria se sono solite ascoltarli in podcast non ascolteranno la diretta e quindi avranno già il podcast, no? È quasi tautologica, un'informazione tautologica. Era solo per ringraziare Edo, alias l'uomo con le scarpe da calcio a Radio 24, che ci ha caricato tutti i podcast, oltre che Vittoria Mussini, Valerio Usiello, tutti quelli che rendono possibile questo programma. Ma torniamo invece a quella prima... No, informazioni di servizio ovviamente, perché quando uno dice non mi ricordo qualcosa, c'è sempre qualcuno all'ascolto che se lo ricorda. Per cui chi di verde si veste, ci sono 2 versioni. Di sua beltà si fida e a sua beltà s'affida. Addirittura c'è un ascoltatore o ascoltatrice di lingua spagnola che dice che questo letto è anche in spagnolo, che è el que se viste de verde por guapo se tiene, cioè che si ritiene bello, immagino, giusto. E poi, a proposito del racconto di Ammaniti, è arrivata l'informazione, cioè Angelo da Novara mi scrive che il racconto in cui Ammaniti va, o il protagonista del racconto, va a incontrare i genitori della propria fidanzata e vede in loro tutti i pezzi di lei, o in lei tutti i pezzi di loro, è un racconto che è contenuto nel libretto allegato al disco di Luca Carboni del 92 che si chiama Canzoni e Confusioni, che è una roba che mi sembra un po' strana, Angelo, ammetto, perché io non ho mai comprato un disco di Luca Carboni. Però magari è girato da qualche parte e l'ho letto anche per quello. E invece hanno scritto quelli che sono stati a cena a casa dei genitori di lei o di lui. Primissima cena, porto una bottiglia di vino, costatami all'epoca 60.000 lire. Il mio futuro suocero mi fa: Enzo, conosciamoci un po'. Prende il vino e ne versa fino a riempire mezzo bicchiere. Poi prese la bottiglia di Coca-Cola. Enzo da Catania. Un paio di mesi dopo aver conosciuto il mio compagno, lui mi porta a casa dei suoi. La frase che mi disse suo padre e che mi è restata stampata in testa fu: che intenzioni avete? Mazza, un po' prestino. Sarà stato che il padre continuava a chiamarmi con il nome del suo ex fidanzato? Non male il padre. Il primo incontro con i genitori della mia ex ragazza mi dissero che non ero del loro ceto perché avevo la terza media, Gianluca 72. Non so come sia finita, però a tutti quelli che vogliono raccontarmela, 80024 0024 oppure gli sms sono 349 238 6666. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo in riva al mare, direi. Credo non sia un lago, perché sarebbe un lago, il lago Tanganyika sarebbe enorme. Ci sono delle onde lunghissime anche, quindi la spiaggia è molto lunga. Deve essere più o meno l'ora di cena, o magari no, magari prima, perché se è inverno è attorno alle 4:30 del pomeriggio. C'è un molo che entra in mezzo al mare, queste onde appunto che frangono e che rendono la schiuma bianchissima, un cielo molto coperto, però aperto, con della luce che spunta, e al centro della foto, protagonista, un cigno. Giovanni Fregonese, 28 anni. Ero sulla spiaggia, camminavo dopo un giorno di pausa da lavoro e un cigno mi è venuto incontro. Ero a Jesolo, io sono qui. Oggi per strada ci sono due vecchietti piccolissimi. Come quasi tutti gli anziani, molto anziani, sono un po' curvi, un po' bianchi, un po' tremanti. Entrambi portano un cappellino che copre i capelli radi. Lei un cappello da signora, lui un cappello da pescatore. Li guardo mentre arrancano su per la salita, facendo attenzione al ghiaccio, passo dopo passo. Lasciano le loro orme sulla neve e si sorreggono a vicenda, tenendosi stretti per mano. Penso a tutte le salite che hanno superato insieme. Penso se mai ci sarà qualcuno che riuscirà davvero a capirmi o che perlomeno ci proverà. Non ne sono tanto convinto. Forse perché sono diverso con ognuno e quindi tutti riconoscono in me una persona differente. Che non sono io, o forse sì. Penso anche che in fondo, quando ci nascondiamo, un po' forse vogliamo farci scoprire. E penso che anche domani io sarò qui. Manuele. Oggi ho voluto, dopo la foto che vi ho raccontato, che trovate sempre sul sito, leggervi una brevissima mail che mi ha mandato un ascoltatore, Manuele. Io sono qui, @radio24.it, perché a differenza delle mail che mi arrivano di solito, in cui insomma si chiedono delle cose, appunto i podcast oppure delle informazioni generali sul programma, Manuele ha fatto una cosa che appena l'ho letta mi è balzata agli occhi come la descrizione di una fotografia, cioè dove sono io in questo momento. Visto che noi, io lo chiedo tutti i giorni di mandare una foto per raccontarmi voi dove siete, mi è piaciuto il modo in cui Emanuele ha descritto a modo suo la fotografia in cui del luogo in cui si trovava, credo oggi o questa mattina, che è chiaramente una fotografia fisica ma anche emotiva. Se avete voglia, se vi capita di trovarvi 5 minuti per raccontarmi voi dove siete in 5 righe, l'indirizzo è sempre quello, ed è io sono qui @radio24.it. C'è la foto sul sito, ma magari dopo sul profilo Facebook carico anche queste 4 righe che mi ha mandato Emanuele. A proposito del profilo Facebook, so che queste cose sono noiose, però poi si perdono le persone che vanno a cercare. Non c'è più il profilo di prima, ce n'è uno nuovo, ma si chiama sempre Matteo Caccia, io sono qui. Basta che clicchiate su mi piace e avete accesso a tutte le informazioni. Oggi mi è arrivato questo messaggio invece, proprio su quel profilo lì di Facebook, di Stefano, che dice: probabilmente la mia cena con Angelo e Rosy risale a quando avevo pochi anni di vita, visto che le nostre famiglie si conoscevano già da ben prima. Pronto, Stefano? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Buongiorno. Bene, bene, tutto bene, grazie. Senti, raccontami tutto, perché qua io non l'ho letto tutto il messaggio, ma era abbastanza lungo. Uno è sardo e l'altra, chi è sardo dei due? Tu, immagino, Loi. Io sono sardo, Loi, sì, e mia moglie invece, la mia attuale moglie, è veneta, di Bassano del Grappa. E com'è che vi conoscete da quando eravate grossi così? Ci conosciamo perché si sono conosciute prima di noi le nostre mamme. Nel 1970 hanno studiato a Livorno infermiera, sono diventate grandi amiche, sì. E poi la vita le ha di nuovo separate, ognuna è tornata nella sua regione, si sono sposate, hanno avuto i figli che hanno avuto, e noi siamo i primogeniti. Poi durante i vari anni le due famiglie sono rimaste in contatto per telefono, per gli auguri, qualche sporadica visita ogni 5-6 anni. E poi invece, quando verso i 18 anni miei c'è stata, vabbè, la storia è molto lunga, comunque alla fine insomma ci siamo innamorati. Hai abbassato il tono di voce, Stefano, quando l'hai detto. Sì, sì. Avevo paura che ti sentissero. Senti, fammi capire una cosa. Immagino, sì, che come mi scrivi tu, chiaramente la prima cena non te la ricordi. Però ci sono state le prime cene da qua, da fidanzati, no? In cui hai raccontato. Sì, e non è stato poi semplice, nel senso, perché ero un po' intimidito, nonostante li conoscessi già, ma era la loro una famiglia. Cosa ti hanno detto Angelo e Rosy? Ma diciamo che da come mi racconta sempre Alessia, mia moglie, sì, quando gli ha detto sua mamma: Io e Stefano ci siamo, insomma, fidanzati, ci siamo innamorati, e lei gli ha detto: ma non potevi trovartene uno più vicino a casa? Perché tu eri sempre in Sardegna, ovviamente. Io sono in Sardegna, ma poi sono andato a studiare a Pisa, poi a Bologna, ci siamo inseguiti per mezza Italia per 15 anni. Senti Stefano, so che stai lavorando, quindi non voglio rubarti troppo tempo. Dimmi, tu sei un medico, giusto? Sì, sono un medico. E quindi adesso sei in ospedale? Sì, sì, siamo un momento di pausa, non ci ma sono... Ma quindi, scusami, tu sei vestito anche tu con quella roba verde che avevano addosso i radiologi e con gli zoccoli? Il camice piombato. Il camice piombato. E gli zoccoli? I zoccoli, no, sono normali. No, non piombati, però è sugli zoccoli. Sì, sì, sì. Lì tutti colorati. Stefano, grazie mille. Salutami la moglie e i suoceri. Buona giornata. Grazie. Ciao, grazie. Andiamo subito da Alessio da Livorno. Pronto, Alessio? Ciao. Ciao, buongiorno. Senti, cosa vuol dire che tuo suocero è uno stregone? Allora, tecnicamente non è uno stregone, è uno studioso del flusso del karma. Ok. Sbaglio o non, mi sembri un po' scettico? No, è che nel senso è una cosa un po' surreale, perché la prima volta che l'ho conosciuto era una situazione un po' strana, ma non strana come si può pensare, che eravamo lì a cena con la mia ragazza e io a un certo punto faccio: Gianni, ma te che lavoro fai? E lui dice: predico il futuro. Sono qua, sono tutto orecchi, scusami. E quindi ha predetto il vostro futuro pronti via? Diciamo di sì, però insomma, quando me l'ha detto ho fatto: vabbè, dai, però che lavoro fai? Certo. Cioè lui lo fa di mestiere quella roba lì? Sotto un certo punto di vista sì, ha fatto un altro lavoro che ha messo i soldi da parte ed è una specie di eremita sulle colline lunigiane. Senti Alessio, perdonami, ma tu chiami da Livorno, ma sei di Livorno come me, però? No, io no, sono originario di Genova, sono... Ah, ok. Senti, dimmi che cosa ha detto della coppia, quindi, come ha previsto il vostro futuro? Ma visto che è 9 anni che stiamo insieme, abbiamo cominciato a convivere 24 ore dopo che ci siamo conosciuti. Wow. L'ha predetto bene. Senti, lui adesso dov'è, quindi? Fa il santone nel... dove? Fa l'eremita, non è un santone, cioè, perché te lo conosci, è una persona normale, però ha scelto di vivere praticamente in una casetta isolata dal mondo. Ma è andata a trovarlo tu e la tua fidanzata? Una volta all'anno sì. Solo una volta all'anno, perché lui non vuole? Sì, cioè, perché lui fa l'eremita. E di cosa vive? Di quello che gli porta la gente. Ok, quindi lui non coltiva, non alleva animali? Sì, qualcosa, però insomma mi stava spiegando che certe cose si possono esercitare ma non puoi chiedere soldi. Ho capito. Guarda, dovrei dedicarci un'intera puntata a questa roba. Alessio, però ti ringrazio molto e ti saluto. Dai, ciao. Ciao, buona giornata, grazie. Oggi mi ha scritto Alberto su Facebook: i suoi avevano un ristorante, quella sera l'aveva tenuto tutto il ristorante per noi. Pronto, Alberto? Sì, ciao Matteo. Cioè, avevate tutto il ristorante a disposizione? Esatto. Che è una situazione un po' di panico, perché direi. Quando vai al bar e lavora un tuo amico e non sai come comportarti, perché e poi con i suoceri, figuriamoci. Ma quindi, scusami, in quel frangente chi cucinava? I suoi. Che sono i cuochi anche, oltre che i proprietari. Esatto. E cos'è accaduto? Cosa ti hanno cucinato innanzitutto? Beh, varie cose, c'era, mi pare, delle scaloppine con i funghi, delle lasagne, insomma c'era un po' di tutto. E come è finita la cena? È stata sul finale, io sono andato ad abbracciare la mia ragazza, perché si è rimasti soli un attimo, in quel momento lì è arrivato il papà della mia ragazza, cioè, mi ha praticamente incendiato con lo sguardo quando mi ha visto. Vabbè. E io ho fatto il salto del tavolo e mi sono ritrovato seduto sulla sedia in tempo zero. Alberto, grazie mille, buona giornata. Ciao, alla prossima. Fenoglio, Chiara, Francesca e Chiara mi scrivono: Fenoglio, la paga del sabato. Lui conosce il padre di lei e capisce che se vuole sposare lei sposa anche tutta la sua famiglia, ma non tanto per dire, proprio sposa un pezzo di quell'uomo e di quella donna. Detto benissimo da Beppe, nella fattispecie Fenoglio. Andiamo però a sentire Roberto da Napoli. Pronto, Roberto? Ah, pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene, Senti, vai. Allora, tra le scene che io sicuramente non dimenticherò mai, sì, è stata la scena quando mio figlio portò i genitori della sua fidanzata, attuale moglie. Quindi con suoceri? I consuoceri, bravo. Sì. Io ero appena uscito dall'ospedale, sono un medico, sì, mia moglie è indaffaratissima, e allora sai, vengono questi, ognuno cercava di dare il meglio di se chiaro, stessi. Certo. La prima volta, poi troppo, c'è la prima volta che vedevamo la fidanzata, sì, con la moglie di mio figlio. No? Sì, sì, ragazzo, sì, sì, sì. Roberto, devo chiederti di stringere perché ho poco, sì, 30 allora, secondi. All'improvviso ci imbarchiamo in una, lei, la consuocera, sì, si imbarca in una discussione filosofica, religiosa, noi prendevamo, sì, delle sue labbra, all'improvviso fa un peito di quelli proprio che rimbombano in tutto il salone. Ma... silenzio generale. Mio figlio dice: sarà qualche colpo di guerra della Bosnia che sarà arrivato qua. E ti lascio immaginare. Lo immagino. Roberto, ti ringrazio. Buona serata. Buona serata. Ciao, grazie. Mio padre disse a mio cognato: ora che te la sei presa, non provare a riportarla, riferito a mia sorella. Grazie a Paulino Corleoni, a Vittorio Mussini e a Tiziano Bonini. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi, dove siete?